L'altra Europa. Benvenuti all'Altra Europa, come ogni settimana qui per raccontare l'Europa dai suoi tanti punti di vista, dalle sue sfaccettature, dalla sua attualità. Oggi toccheremo con mano, andremo in alcune delle zone, in alcune degli stati più caldi per seguire in tempo reale quello che sta accadendo. Un programma in collaborazione con Euronet Plus, il nostro network a cui apparteniamo, questa piattaforma di radio europee per raccontare le tante voci dell'Unione. Ci trovate anche sulle nostre piazze virtuali, Facebook e Twitter, gli account sono i miei personali, quindi Federico Taddia. Ogni settimana un viaggio, il viaggio di oggi parte da Bruxelles e andiamo là per giocare. La palla è in possesso dei rossi, praticamente dei datori indietro dei rossi che tengono palla. Le solite, tra virgolette, schermaglie, diciamo, di zona centrale del campo con gli arbitri. E quella che state ascoltando è la telecronaca di una partita, l'avete capito. La partita è quasi un gioco molto particolare che si chiama la palla grossa, è un gioco popolare, un gioco tipico della città di Prato. E questo gioco, la palla grossa, è sbarcato a Bruxelles. È sbarcato perché è l'Europa dei territori, l'Europa local, no? Il locale che incontra il globale, passa anche attraverso le tradizioni. E proprio a Bruxelles è stata inaugurata una mostra all'interno dell'Europarlamento per presentare questo gioco popolare pratese. Con noi il promotore e l'organizzatore dell'associazione Palla Grossa di Prato, diamo il benvenuto a Claudio Belgiorno. Ciao Claudio, benvenuto all'Altra Europa. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, uno si chiede, a Bruxelles cosa c'entra la palla grossa, là dove c'è l'euro, là dove si parla dei massimi sistemi europei? Voi siete arrivati col vostro sport. E tra l'altro come funziona veramente in poche regole base? In cosa consiste il gioco? Allora, per la prima volta si è parlato non solo di euro, di problemi, ma siamo andati a parlare di una tradizione italiana, una tradizione pratese che già nasce nel Medioevo. È uno sport che, come ho detto, nasce nel Medioevo, quando gli eserciti dopo la guerra tornavano nelle loro città, si fronteggiavano in queste partite che erano, diciamo, una sorta di palio della città in quel momento. Uh-huh. Questo calcio medievale sia a Prato che a Firenze. A Prato si chiama palla grossa e a Firenze calcio fiorentino. Ok, quindi il calcio fiorentino, ok, sono la stessa cosa, quindi quello che vediamo anche in televisione. Esatto, pochissime differenze. Lo storico del calcio fiorentino e della palla grossa, che il Redi, è lo stesso. Quando si ferma a Prato nei suoi libri e va a Firenze, dice: l'unica differenza che ho notato tra i due è la grandezza della palla dei pratesi. Quindi lo storico proprio li mette uguale. Come sport, come regole, è proprio proprio una disciplina molto molto maschile, perché alla fine viene usato il fisico in tutto e per tutto, quindi c'è gli scontri, c'è le prese e c'è anche il famoso testa a testa. Testa a testa è l'occasione per due persone di fronteggiarsi anche con i cazzotti. Certo, sì, ma vale un po' tutto, questo è quello che sembra, almeno dagli occhi del pubblico, poi invece ci sono regole. Ma e come mai l'idea di andare a Bruxelles a portare là il calcio, la palla grossa? Perché sicuramente Bruxelles è un'occasione per far conoscere la palla grossa non solo ancora di più in Italia, ma anche per poterla esportare, perché uno dei nostri obiettivi è entro il prossimo anno di fare almeno una tappa all'estero facendo conoscere questa tradizione a paesi che non hanno tradizioni medievali e sono a corto di cultura storica. Qual è stata l'accoglienza? Molto bella, anzi, diciamo, molti erano stupiti, perché vedere entrare questi bestioni tutti in divisa dei colori è stata una bella cosa, secondo me. Mm-hmm. Vedevo le facce delle persone anche che fermavano incuriosite per capire, perché il classico completino, al di là della maglietta, che durante la partita dura un minuto perché si strappa, quindi tutti a petto nudo, c'è i classici pantaloni della Guardia Svizzera. Ricordiamo che appunto la mostra è ancora aperta presso l'edificio Altiero Spinelli a Bruxelles, sì, all'Europarlamento. È ancora aperta, durerà ancora qualche giorno, poi la mostra sarà trasferita a Prato, sarà in maniera permanente nei palazzi del comune. Benissimo, sul sito invece eunews.it potete trovare sia l'articolo sia alcune foto per capire quella che appunto è l'essenza di questa iniziativa. Un gioco storico, un gioco che parte dal Medioevo ma che vuole guardare al futuro e per farlo passa appunto da Bruxelles e dall'Europarlamento. Claudio, facci sapere se riuscite a fare questa tournée europea anche, che è uno degli obiettivi. Noi stiamo lavorando per la prima tappa, che farla in Cina, visto che a Prato c'è la comunità cinese più grande d'Europa, si spera di poter fare la prima tappa direttamente in Cina. Proprio fuori dall'Europa, sì? Mm-hmm. Fuori dall'Europa, sì, perché sono molto interessati loro anche. Sono alcuni dei nostri sponsor, tra l'altro gli piace questa disciplina perché a loro gli garbano il contatto fisico naturalmente nei loro sport e quindi gli incuriosisce proprio la palla grossa. Grazie davvero Claudio Belgiorno, promotore e organizzatore dell'associazione Palla Grossa Prato. Ricordiamo ancora per le informazioni pallagrossa.it. Ciao e buon sabato, grazie. Grazie a tutti. Dite το, όπως το βλέπουμε κι εμείς. Πιστεύουμε ότι η τηλεόραση έχει μια αποστολή. Να μας δείξει το δρόμο για τη συλλογική προσπάθεια. Να μας κάνει να κλάψουμε. Una TV nazionale fatta per far piangere, per far ridere una nazione, per farla pensare, per farle conoscere le culture, far porre domande. Questo è un po' il testo dello spot che state ascoltando. È l'ultimo spot che è nato in onda sulla Erte, sulla rete di Stato greca. L'abbiamo usato per la prima tappa di questo viaggio, perché questa mattina vogliamo andare in Grecia, poi andremo in Spagna, poi andremo in Portogallo. Sono nazioni dove in questi giorni stanno accadendo cose importanti, scelte politiche, ma anche reazioni di pancia della popolazione, forti contrasti, forti tensioni. Volevamo capire oggi, proprio sabato mattina, cosa sta succedendo in queste ore, avere un po' il quadro della situazione. Siamo quindi ad Atene, con noi Daphne Scaglioni, che è giornalista e conduttrice di Erte. Buongiorno Daphne, ben ritrovata. Buongiorno a lei. Una settimana, anche questa, l'ennesima settimana importante in Grecia, questo taglio che è arrivato di 25.000 posti pubblici, le manifestazioni che non si sono fermate. Ci puoi fare un po' tu il quadro, cosa sta accadendo ora in Grecia? Allora, dobbiamo per forza parlare un po' dei numeri. Entro la fine di luglio sarà pronta la lista dei primi 5.000 nomi, in un totale di 12.500 lavoratori del settore pubblico che verranno messi a disponibilità per 8 mesi, lo dicono così. Poi il totale sarebbe 15.000. Però sono già stati rimossi i 2.500 impiegati della ERT, dove lavoravo anch'io. Sì. Allora, in questa prima lista saranno inclusi 2.500 guardie scolastiche, 2.000 docenti e 500 funzionari ministeriali. Fino alla fine di settembre seguiranno 3.500 agenti di polizia municipale, 1.500 insegnanti e 2.000 dipendenti di ministeri e dei comuni. Questo periodo di disponibilità, come lo chiamano, durante questo periodo i dipendenti riceveranno il 75% del loro stipendio, verranno valutati, alcuni di loro saranno licenziati. Da questi 25.000 dipendenti dello Stato che dovranno entrare a questo stato di disponibilità fino alla fine del 2014, 4.000 saranno licenziati nel 2013 e 11.000 nel 2014. Questo è il quadro di questo che dovrà succedere, dei tagli che aspettiamo. Gli scioperi generali sono certo frequenti, come le manifestazioni, perché tutti i settori sono influenzati dai tagli. I servizi dei municipi mal funzionano, tanti sono stati occupati dai loro dipendenti. Il sindacato dei docenti, o il MEI si chiama, denuncia che il governo condanna in morte 2.500 insegnanti di 52 specialità, elimina così tre interi settori di licei e istituti di istruzione tecnica. Mm-hmm. Caratteristicamente quello che dice il sindacato dei docenti è che oltre 20.000 studenti non avranno una scuola alla quale tornare a settembre, dovranno o lasciare la professione che avevano scelto di studiare o rivolgersi al settore privato di educazione se hanno i soldi per farlo. Cioè, insomma, la situazione è assolutamente ancora confusa e appunto piena di contraddizioni come dall'inizio di questa brutta storia. Grazie davvero Daphne, in bocca al lupo a te e a tutti i tuoi colleghi per l'importante lavoro che comunque continuate a fare. Ciao e buon sabato. Speriamo, sì. Speriamo anche noi. A presto, sì, a presto. Grazie a te, ciao. Sa quando ci preparo un sopra il figlio per pagarmi le vacazioni sempre lì. Da me sopra il chaval, venga se sopra il chaval, sopra il paracco ospedale. E il dinero negro, vale pues me alegro. In politica sempre si cobra sì. Dame el sobre nena, venga ese sobre nena, sobres pa Javier Arenas. Hay sobres hoy, hay sobres para Rajoy. Corrupción. Cojo dinero de vuestros impuestos. Corrupción. Quella che invece state ascoltando ora è una parodia su Rajoy che sta girando molto sul web, sulla falsa riga di una canzone degli Ska P che già abbiamo conosciuto qui all'Altra Europa. Stiamo andando in Spagna, dove appunto i fondi neri, questi presunti fondi neri, hanno sconvolto un terremoto politico anche lì al centro Rajoy, ma attorno allo scandalo politico sta nascendo anche altro. A Madrid anche gli scontri tra i manifestanti che chiedevano le dimissioni del premier e la polizia. Per avere un quadro di quello che sta succedendo, con noi Jorge Maria Rodriga, caporedattore della redazione internazionale del quotidiano El País. Ciao Jorge, ben ritrovato. Buongiorno. Allora, terremoto politico con questo scandalo. È vero scandalo o è uno scandalo solo mediatico? No, non è per niente un scandalo soltanto mediatico, è uno scandalo vero, perché, ma soprattutto uno scandalo politico più che giudiziario. Il fatto che per la prima volta si è dimostrato che politici nella cupola del governo hanno ricevuto dei soldi in maniera, diciamo così sporca, come con le banconote dentro le buste, ha sconvolto tutto il panorama. Un'altra cosa è l'investigazione giudiziaria, che sarà molto difficile provare, perché in queste cose tutti sappiamo che mai si firmano delle ricevute, ma certamente ha messo al Partito Popolare in una situazione abbastanza difficile. Il fatto che il Partito Popolare ha la stragrande maggioranza in Parlamento e non avrà, diciamo, dei problemi in Camera, ma dei problemi per le strade, soprattutto pensando alle prossime elezioni generali, forse sarà una vera scossa per il partito nel governo. Mm-hmm. E abbiamo letto appunto di proteste, di scontri anche con la polizia. Si è un po' placata la situazione da questo punto di vista? Sì, certamente dai primi giorni in cui è uscito questo scandalo ci sono state delle proteste, dei piccoli cortei davanti alla sede del Partito Popolare. Poi, come di solito capita quando c'è un corteo, ci sono sempre dei piccoli gruppi radicali che fanno questi incidenti. Diciamo che per strada non è tanto un senso di violenza, ma come un senso di indignazione assoluta. Ma non soltanto col partito. Dobbiamo ricordare che questo scandalo arriva dopo lo scandalo con la famiglia reale, un altro scandalo col Partito Socialista in Andalusia, che anche coinvolge dei pagamenti in nero. È moltissima gente delusa, se non con il sistema, almeno sì con il sistema bipartidista. Mm-hmm. Questo si verrà sicuramente nelle prossime elezioni, quando partiti che finora erano minoritari sicuramente avranno un risultato eccezionale. Si dimetterà Rajoy? No, secondo me non lo farà, perché come avevo detto prima, lui il Parlamento lo ha controllato, quindi soltanto dovrà dimettersi se alla fine un giudice arriva e dimostra che lui ha ricevuto questi soldi, perché fino a questo momento diciamo che certamente la persona che lo ha accusato è quella che controllava la cassaforte del Partito Popolare, ma per dimostrare quello in sede giudiziaria è abbastanza difficile. Anche un paio di giorni fa si è saputo che pure il Presidente del Tribunale Costituzionale è membro del Partito Popolare, di una cosa assolutamente irregolare e che ha sconvolto pure il mondo giudiziario. Rajoy diciamo che ha una crisi con l'opinione pubblica, una crisi con la gente, ma non ha una crisi in Parlamento, e alla fine il Parlamento è l'unica Camera che lo può fare dimettersi. Ho capito. Grazie davvero come sempre a Jorge Maria Rodriga. Jorge, buona estate, insomma. Buona estate anche a voi, a tutti gli ascoltatori. So che la situazione è assolutamente calda, ma speriamo di ritrovarci in autunno con qualche notizia migliore. Ciao. Volentieri. Grazie. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Il deputato Nuno Magalhães sublinhou os resultados das conclusões do último Conselho Europeu quanto ao quadro financeiro multianual. Nós. As pessoas não se podem manifestar, sobretudo nestas condições. É só o senhor primeiro-ministro. E poi c'è il Portogallo al centro di decisioni e di ore decisive. Avete ascoltato le contestazioni al Premier qualche settimana fa durante una manifestazione, ore decisive, perché in pochi giorni, entro oggi, ci sono da fare scelte importanti per capire anche lì cosa sta accadendo. Con noi c'è Marcello Sacco, che è un giornalista freelance, collabora con l'Espresso, pubblica su il magazine Q-Code Magazine, che è qcodemag.it per chi volesse conoscere il sito. Ciao Marcello, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Ciao. Tre giorni per il salvataggio, questo intitolavano i quotidiani qualche giorno fa, le speranze di raggiungere un'intesa per salvare il paese. Marcello, questa intesa è stata trovata? Cosa significa oggi salvare il Portogallo? No, l'intesa non è stata trovata. La notizia di ieri sera, già sul tardi, è che questi negoziati fra i tre partiti sono saltati e quindi non c'è intesa. La crisi di governo qui in Portogallo è iniziata il 1° luglio, quindi oramai sono già 20 giorni di crisi. Se ne è parlato un po' all'inizio, forse poi in Italia la cosa non è stata più seguita, e è una situazione abbastanza confusa. Per fare una fotografia sintetica potrei dire che c'è un governo in crisi. C'è stata anche una mozione di sfiducia qualche giorno fa in Parlamento, e il Presidente della Repubblica però ha blindato il governo dicendo che il Paese non può permettersi una crisi in questo momento, sarebbe troppo cara. E poi c'è un partito di centrosinistra, il Partito Socialista, che quando gli avversari di centrodestra vanno in crisi, lui va in una crisi ancora più profonda. Quindi questa è la fotografia, non so se gli ascoltatori italiani riconosceranno qualcosa di familiare nella fotografia portoghese, però poi alla fine le notizie dall'Europa si somigliano un po' tutte. Ascoltavo prima anche la corrispondente da Atene. Uno dei grandi punti caldi di questo negoziato e della politica portoghese delle prossime settimane è che bisogna fare quei tagli alla spesa pubblica e alla pubblica amministrazione che in Grecia si stanno attuando in questo momento. Si parla di tagli per 4 miliardi e 700 milioni, quindi ci saranno molti licenziamenti, molte rescissioni amichevoli, la mobilità. Ed è uno di quei lavori sporchi che nessuno vuol fare, quindi sono tutti molto molto molto preoccupati. Il Partito Socialista aveva partecipato a questi negoziati con gli altri partiti, non si capisce bene sulla base di cosa, per perché poi a un certo punto ha rischiato persino la scissione interna, perché una parte dei socialisti, anche storici come Mario Soares, aveva appunto evocato un po' lo spettro della scissione del partito. Marcello, ti faccio uscire un attimo dai palazzi della politica, invece ti faccio scendere in strada. Anche a te la stessa domanda: qual è l'umore, che è un umore strano sempre, perché il popolo portoghese è un popolo particolare, un popolo non abituato a protestare, un popolo malinconico, così almeno tra lo stereotipo e la verità, però, perché gli stessi portoghesi così a volte si sono presentati, si sono raccontati, e l'umore è scivolato nella rassegnazione o si vedono spiragli? Sì, questo è lo stereotipo che alle volte contiene qualcosa di vero, sempre. E in effetti anche oggi e ieri sera i portoghesi hanno visto in televisione, hanno letto le notizie degli scontri in Spagna, e qui non c'è niente di tutto questo, però quest'anno, quando parlo di anno, diciamo un po' l'anno scolastico, da settembre all'estate che ormai è arrivata, è stato un anno caldo, è stato un anno di manifestazioni, alcune anche molto molto forti, molto partecipate. Però è vero che il paese alle volte sembra immobile, sembra stupito anche di fronte, soprattutto per esempio di fronte alla crisi del palazzo della politica in questo momento. Non si capisce bene effettivamente cosa sia successo, cosa stia succedendo anche all'interno della coalizione di governo, e il paese resta un po' attonito. Però è chiaro, sì, c'è molta rassegnazione, c'è anche molta rabbia. Voi avete trasmesso poco prima del mio intervento la contestazione avvenuta proprio nel Parlamento, no? Da parte di alcuni militanti che hanno cantato Grandola Villa Morena, che è una canzone simbolo della rivoluzione dei garofani del 25 aprile del 74. Quindi rassegnazione sì, ma fino a un certo punto. Ovviamente bisogna vedere cosa accadrà, succederà ora. Certo. Sì, con le prossime scelte, le prossime decisioni. Certo. Giuseppe, grazie davvero, ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa per continuare a seguire dal di dentro le vicende portoghese. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie. Ciao, buon sabato. And still there never seems to be a single penny left for me. That's you. Money è sempre solo questione di soldi, questa Europa che noi cerchiamo di raccontare nella sua unità e unicità. Ci piace l'Europa delle culture, l'Europa delle differenze, l'Europa della contaminazione, poi c'è l'Europa della crisi, c'è l'Europa che ti stritola, c'è l'Europa dei suoi regolamenti, ma quello che a noi piace sottolineare è anche l'Europa delle risorse, delle opportunità, e ci sono queste opportunità e sono proprio in forma di money, di soldi, di euro. E stiamo parlando per esempio dei fondi europei, che sono davvero ossigeno, sono davvero una manna. Questi fondi europei che non solo ci sono, vanno cercati, vanno utilizzati, vanno ottimizzati. E proprio per questo ho scelto di invitare un collega, un giornalista del Sole 24 Ore, esperto di economia e anche e soprattutto di questioni europee. Proprio questa settimana ha scritto un importante pezzo che dice: per l'Italia a rischio il 62% dei fondi dell'Unione. L'Italia non riesce a spendere, non solo non riesce a volte a recepire questi soldi, a trovarli, ma poi quando ce li ha non li spende. Con noi Giuseppe Chiellino. Ciao Giuseppe. Buongiorno a voi. Ciao. Cosa siamo? Incompetenti? Non abbiamo ancora capito come funziona la questione dei fondi europei. Facci un po' il quadro della situazione. Ma sì, forse un po' di incompetenza c'è, di sicuro c'è stata. Io direi più ignavia negli anni passati. Forse si pensava che non ci fosse bisogno di queste risorse, e chi metteva le mani su queste risorse arraffava o comunque insomma lo faceva senza troppi scrupoli, senza preoccuparsi di quello che è il vero obiettivo di queste risorse che l'Unione, che il bilancio dell'Unione Europea mette a disposizione degli Stati, e che poi non sono altro che risorse degli Stati stessi, perché il bilancio dell'Unione certo. Europea è fatto con fondi degli Stati nazionali, degli Stati membri. Per il periodo 2007-2013 è una programmazione che si fa di 7 anni in 7 anni, quindi l'ultimo periodo di programmazione è quello che si chiude quest'anno. L'Europa aveva messo a disposizione 348 miliardi di euro per i vari paesi, e la quota italiana era di 28-29 miliardi di euro. E a questa quota si aggiunge una percentuale importante che è intorno al 50%, e non sempre è uguale, anzi l'Italia nell'ultimo anno ha dovuto ridurla perché non ce la faceva a contribuire a una quota di cofinanziamento, perché questi fondi vanno spesi insieme a risorse nazionali, mm-hmm. Proprio per dimostrare l'impegno del paese a investire su, a coinvestire con l'Europa. L'obiettivo di fondo di questi, di queste risorse è quello di la solidarietà dello sviluppo, come dicono gli esperti europei, cioè fare in modo, ridurre le disuguaglianze tra le diverse regioni europee, fare in modo che le regioni più povere, le regioni più arretrate convergano verso livelli di sviluppo, di ricchezza, di crescita vicini alla media europea. Infatti l'obiettivo principale nel gergo comunitario è l'obiettivo convergenza, che per l'Italia riguarda proprio le regioni del sud, le regioni più arretrate, più povere. Chiudi il tuo articolo dicendo che l'Italia deve ancora spendere circa 30 miliardi entro dicembre 2005, che è quasi un miliardo al mese. Sì, 2015. 2015, esatto. Scusa. Sì, questo per una regola che è una regola un po' astrusa, ma insomma abbastanza poi efficace, che si chiama di N+2, cioè alla fine per ogni anno il paese deve programmare una certa quantità di fondi da spendere nello stato di avanzamento dei progetti, anche perché si tratta spesso di progetti di medio periodo, di lungo periodo, costruzione di infrastrutture per esempio, quindi questi fondi non possono essere spesi tutti d'un botto. Allora c'è un percorso, un programma di spesa, e alla fine di ogni anno si fa la verifica dei fondi che sono stati spesi e che sono stati certificati a Bruxelles, cioè le fatture devono essere presentate alla Commissione Europea, perché la Commissione Europea eroghi le risorse agli Stati membri, e poi gli Stati membri a loro volta alle aziende. Questa regola di N+2 significa che ci sono 2 anni in più di tempo per spendere le risorse relative all'anno N, quindi le risorse relative al 2013 possono essere spese entro la fine del 2015. Quindi 2 anni in più, quindi sostanzialmente il periodo di 7 anni di cui parlavo prima si chiude a fine anno, e poi però appunto ci sono questi 2 anni di tolleranza, esatto, eccoli così. Ce la faremo? Guarda, io questa spero è la sfida. Di sì, perché di questi tempi sarebbe veramente assurdo perdere queste risorse, il rischio di perdere, e noi purtroppo negli anni scorsi ogni anno arriviamo a metà dicembre e spediamo a Bruxelles valanghe di ricevute, valanghe le regioni, di fatture per non perdere, perché se scatta il 31 dicembre poi si sposta di un anno il termine, certo. Quindi significa perdere quelle risorse e non poterle utilizzare. Allora io spero, sono convinto che ce la faremo, anche perché il ministro Trigilia, prima il ministro Barca e ora il ministro Trigilia, hanno messo in campo delle azioni che io spero siano efficaci per riprogrammare questi fondi, dirottarli verso obiettivi anche più coerenti con la situazione attuale, perché non no, infatti è un cambio degli obiettivi. E poi troppe volte ci si lamenta della burocrazia, è vero che la burocrazia è sempre un male, però serve anche la burocrazia, basta lamentarsi della burocrazia, questa burocrazia europea va conosciuta, va capita, e anche lì bisogna acquisire competenze e cercare di navigare tra le mille regole che ci sono. Le regole ci sono, è inutile sì, le regole ci sono, bisogna rispettarle. Tra l'altro la burocrazia spesso non è tanto quella europea quella che impedisce, sì, no, infatti, è il passaggio successivo, anche la nostra, quella italiana. E la cosa più importante però in questa fase è quella di riuscire a programmare bene, perché dal 1 gennaio inizia il prossimo periodo di programmazione, quindi si decide adesso, e già siamo in ritardo, come saranno spesi i soldi per i prossimi 7 anni, quali saranno le azioni di intervento su cui l'Italia concentrerà i propri sforzi e le risorse comunitarie per favorire la convergenza e lo sviluppo di tutte le regioni, ma soprattutto di quelle più arretrate. E noi siamo un po' in ritardo, e anche lì il ministro Trigilia sta cercando, ha immaginato di costruire, di mettere in piedi un'agenzia che faccia un po' da collettore di tutte le iniziative delle regioni, però questa iniziativa a Bruxelles viene vista con un po' di diffidenza, perché si pensa che sia l'ennesimo livello decisionale, l'ennesimo intoppo, ecco. Giuseppe Chiellino del Sole 24 Ore, grazie davvero, ci ritroveremo sicuramente, perché insomma il tema è importante, quindi lo seguiremo con attenzione. Ciao e buon sabato. Grazie a te, buona settimana, ciao. Eccoci qua ancora con l'Altra Europa. Continuiamo a parlare di fondi europei, ma lo facciamo in modo ludico, cioè attraverso un concorso, una bella iniziativa promossa dalla Commissione Europea. E con noi c'è Marco Ricorda del Social Media Team della Commissione, un nuovo team incaricato di postare contenuti, idee, immagini, concorsi sugli account centrali dei social network della Commissione Europea. Ciao Marco, benvenuto all'Altra Europa. Ciao. Ciao, grazie. Allora, avete preso i fondi europei, che sono una cosa assolutamente fredda, assolutamente appunto anche ostica apparentemente per addetti ai lavori, e avete scelto di prendere questo contenuto e trasformarlo in oggetto di concorso. Il concorso si intitola L'Europa nella mia regione, un concorso per immortalare l'Europa nella tua regione, un concorso fotografico. Di cosa si tratta? Sì, esatto, infatti partecipare a questo concorso è facilissimo, basta andare sulla pagina Facebook della Commissione Europea, sì, e da lì puoi vedere la app chiamata Europe in My Region, in questa applicazione puoi fare un upload di 3 fotografie che illustrino come i fondi comunitari vengono utilizzati. Dunque, l'unico criterio necessario per fare l'upload di queste foto è che la foto stessa abbia presenti il logo dell'Unione Europea, la bandiera blu con le famose 12 stelle gialle. Mm-hmm. E in palio ci sono, per 4 vincitori, un buono da 1000 euro da spendere in apparecchiatura fotografica digitale, e soprattutto ci sono un viaggio a Bruxelles per 2 persone durante la settimana delle città e delle regioni, che si svolge a cavallo tra il 7 e il 10 ottobre. E ci puoi fare qualche esempio? È già arrivata qualche foto? Sì, sì, nonostante la data di scadenza sia il 23 agosto, abbiamo già ricevuto oltre 100 foto, ma i dati dell'anno scorso sono veramente incoraggianti, in quanto nell'edizione dell'anno scorso, che è stata la prima che abbiamo fatto, sì, abbiamo ricevuto qualcosa come 800.000 visite sull'application, più di 1.000 foto sono state caricate e addirittura 7.000 persone hanno partecipato al voto. Mm-hmm. Dunque noi speriamo quest'anno di fare ancora meglio, di incoraggiare la gente a venire a conoscenza di ciò che l'Unione Europea fa per riguardo ai fondi comunitari. Ok, quindi hanno comunque conoscenza, hanno consapevolezza, e questo è importante, perché insomma chiedere di andare a fotografare un qualcosa legato ai fondi europei non è semplice apparentemente, no? Come di primo acchito, invece per fortuna c'è capacità comunque di andare a vedere, di informarsi, di percepire quando l'Europa è presente nel tuo territorio. E ci vuoi ricordare la pagina Facebook per trovare tutte le info? Certo, basta andare su Facebook e cercare European Commission, sì, e da lì si possono trovare tutte le informazioni. Una cosa che volevo dire è che, come ha spiegato anche Giuseppe nell'intervento precedente, sappiamo che l'Unione Europea, in seguito all'ingresso della Croazia, ha superato i 500 milioni di abitanti. Sì. E la Commissione si rende perfettamente conto di quanto sia difficile potersi approcciare ai cittadini, specialmente nelle comunità locali o nelle comunità più remote o meno accessibili dell'Unione. E dunque sono proprio questi piccoli progetti locali, parliamo comunque di migliaia di progetti attivi, oltre 100 solo in Italia, che possono veramente fare la differenza in queste comunità. Perfetto, grazie davvero Marco, buon lavoro a te e a tutto il team della Commissione Europea che con te lavora. Ciao, buon sabato. Grazie mille, arrivederci. Ciao. Questa è l'Europa. Sa se l'Europa. Et l'Europa. Bu benim işim. İşte bu Avrupa. Questa è l'Europa, l'Europa che conosciamo, l'Europa di Bruxelles, poi c'è anche il backstage, il dietro le quinte di Bruxelles. Abbiamo pochissimi minuti, però vogliamo comunque darvi ugualmente notizia di quello che è successo in questa settimana, dove c'è stata la sandwich protest, la protesta dei sandwich, la protesta degli stagisti, la protesta di chi lavora dentro lavora agli organi, negli organi del Parlamento Europeo o della Commissione Europea. Sono centinaia di giovani che però si sentono sfruttati, hanno deciso di protestare, una protesta che è nata in rete, una protesta che è stata raccontata da Caffè Babel, una protesta che è stata anche raccontata per immagini da una giovane fotografa italiana, si chiama Valentina Calà ed è qua con noi. Ciao Valentina. Ciao a tutti. Ciao. Abbiamo veramente pochissimo tempo e ti prometto che torneremo per raccontare tutto il tuo lavoro, perché è un lavoro molto ampio, un lavoro bello, un lavoro puntuale. Partiamo però appunto dagli ultimi scatti che hai realizzato questa settimana, perché tu hai deciso di immortalare chi fa lo stage nei palazzi. Esatto, c'è stata una protesta 2 giorni fa di fronte al Parlamento Europeo, a Place Luxembourg, la sandwich protest organizzata da diversi stagisti di istituzioni europee e istituzioni internazionali a Bruxelles. E io, in quanto ex stagista e anche fotografa che si interessa alla vita degli stagisti a Bruxelles, ho deciso di documentare questa protesta e fare dei ritratti, intervistare anche gli stagisti e chiedere le motivazioni e cosa vogliono ottenere, insomma, da questa protesta. Le foto sono state appunto pubblicate da Caffè Babel e da 2 quotidiani belgi. Uh-huh. Chiederti di descrivermi il ritratto dello stagista medio credo che sia impossibile, anche perché tu volevi raccontare storie. Quali sono le richieste degli stagisti? Quali sono state le reazioni? Perché so di tanti eurodeputati che comunque si sono fermati a parlare con i giovani. Sì, certo, mi fa molto piacere che ci sia una risposta positiva dagli stessi parlamentari, e c'è comunque voglia di cambiare le cose. Un ritratto medio di uno stagista, ce ne sono diversi, c'è lo stagista che non guadagna nulla al mese ma continua ad andare avanti e appunto per cercare di arricchire il proprio curriculum, c'è lo stagista che al suo 5º stage con uno stipendio misero che forse gli serve giusto a coprire l'affitto, ma che anche lui comunque cerca di andare avanti perché pensa e spera che prima o poi riuscirà ad avere un posto di lavoro fisso. Questi sono alcuni dei ritratti raccontati da Valentina Calà. Ricordiamo anche il tuo sito, che è valentinamedia.com, se non erro. E, tu vivi a Bruxelles ora, giusto? Sì, vivo qua a Bruxelles. Cosa vuol dire, come ultima domanda, raccontare l'Europa oggi attraverso le fotografie? No, per me è il mio mezzo di espressione, insomma. Non sono tanto brava con le parole o a scrivere, ma piuttosto con la fotografia. Ed è anche un modo per far conoscere meglio ad un pubblico europeo che non si trova per forza qua a Bruxelles cosa vuol dire essere un giovane europeo e un giovane stagista alle istituzioni europee. Valentinamedia.com, un grazie a Valentina Calà, a presto in una delle prossime puntate. Ciao Valentina, Grazie davvero. Grazie, ciao. Questo grazie va a tutti voi per essere stati anche oggi in nostra compagnia. Un grazie alla squadra dell'Altra Europa, Margherita Aina, che con me ha scritto la puntata, Carommelo Lauricella oggi alla parte tecnica. Radio24.it è il nostro sito, da lunedì potrete riascoltare e scaricare in podcast la puntata, ci trovate via mail, l'altraeuropa@radio24.it, oppure su Twitter e su Facebook, sui miei account personali. Adesso il GR, poi il Gastronauta. Ancora ciao, ancora buon sabato. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.